Tra tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno sentito il bisogno di dire la loro sull'affascinante tema del terzo mistero di Fatima, dando origine senza rendersene conto a uno dei più straordinari cortocircuiti mediatici di questi tempi, il solo Marco Delamo, sul Manifesto di mercoledì, ha avuto il coraggio di far notare due particolari che pure non possono non essersi impressi con palmare evidenza nell'attenzione di chiunque abbia riflettuto con un minimo di buonsenso sulle rivelazioni di sabato l'altro. Ha scritto in sostanza che ci voleva da parte di Papa Wojtyła una ben alta considerazione di sé per poter affermare che il punto culminante di un testo dedicato in sostanza ai travagli dell'umanità intera riguardasse un evento della sua personale vicenda terrena, come se un singolo attentato, fallito per fortuna, fosse un segno di crisi più grave dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. E se è anche vero che il Papa presumibilmente non pensava a sé come individuo privato, ma la sua funzione di simbolo, di vicario, è certo comunque che per considerarsi a qualsiasi titolo personale o delegato al centro dell'universo è necessario un ego piuttosto ipertrofico. L'altro particolare è ancora più ovvio. Di una profezia rivelata dopo che l'evento a cui si riferisce ha avuto regolarmente luogo, nessuno in sostanza sentiva o sente il bisogno. Il bello delle profezie sta appunto nel fatto che ci rivelano, pretendono di rivelarci il futuro. Quel futuro che ognuno di noi deve essere in grado in ogni momento di prevedere, perché ne va della sua personale sopravvivenza, e che pure tanto spesso ci illude e ci inganna con fallaci speranze e proiezioni inesatte. Di solito una previsione azzeccata rivela in chi la pronuncia soltanto la capacità di estrapolare correttamente qualcosa a partire dai dati disponibili, ma non è sempre così facile. Ci sono, o almeno alcuni pretendono che ci siano, le previsioni miracolose, le profezie appunto, che si sottraggono a questo modello, che introducono un quid logicamente imprevedibile per cui il loro successo dovrebbe venire considerato la prova di un intervento soprannaturale ed essere opportunamente utilizzato per convincere gli eventuali increduli, perché è questo in sostanza che servono i miracoli. Ma a tal fine il gioco deve essere condotto realmente. Rivelare nel maggio 2000 che una profezia del maggio 1917 prevedeva un certo evento che ha avuto luogo nel maggio 1981 non prova assolutamente niente. E la dichiarazione richiede per essere accettata una dose di buona volontà massiccia, nonché tutta una serie di controlli filologici sul suo testo, come è stato definito, chi l'ha conservato, chi vi ha potuto accedere, con il risultato che il suo potere di convincimento resta comunque piuttosto basso. Tra l'altro, da un punto di vista strettamente filologico, sappiamo che le profezie post eventum sono impiegate dagli studiosi per datare i testi che le contengono, per stabilire, come si dice tecnicamente, un terminus post. Se Dante, per fare un esempio a caso, prevede nel canto 28 dell'Inferno che Fra Dolcino dovrà vendersi per mancanza di vettovaglie, per cui sarà catturato e arso vivo, ben gli sta, ciò significa che quel particolare passo del sommo poema è stato scritto dopo il 1307, quando appunto per quei motivi cadde la fortezza di Montezemolo, dove Fra Dolcino era serragliato. Quando Dante azzarda una profezia vera e propria, riferita a un futuro reale per il momento in cui la scrive, in genere la canna clamorosamente anche lui, come gli succede quando prevede nel primo verso della commedia di vivere fino a 70 anni e manca il bersaglio di 14 punti buoni. Con questo, naturalmente, non voglio insinuare, Dione Scampi, che la terza profezia di Fatima sia stata elaborata da chissà chi dopo il 13 maggio 1981, anche se la tentazione ci sarebbe. Ma è certo che le profezie hanno una loro dinamica, nel senso che anche loro col tempo assumono significati diversi per chi le pronuncia e per chi a vario titolo le recepisce, e sono dei testi, E i testi, oltre al valore che gli dà l'autore, possono assumere benissimo quello che intendono dargli i lettori. Nel caso della rivelazione di Fatima, poi, il processo di elaborazione di quel testo, la cui forma definitiva, per quel che ne so io, risale al 1941, quando fu comunicato a Papa Pio XII, è stata particolarmente lunga, oscura. Una volta morti due pastorelli su tre e solitamente rinchiusa in un convento la terza, su quella visione avranno lavorato chissà quali e quanti esperti ecclesiastici. È abbastanza probabile che, se nessuno si scandalizza, che la versione finale rifletta interessi e paure dell'alto clero portoghese negli anni tra i 20 e i 30, il che spiega naturalmente l'enfasi sulla guerra e sul pericolo comunista e l'assoluto silenzio a cui qualcuno si è riferito sulla Shoah. Quei bravi padri avevano come tutti paura di una guerra in cui l'Occidente avrebbe dovuto fatalmente allearsi con l'Unione Sovietica, e avevano altresì abbastanza paura delle persecuzioni da cui i vescovi più o meno bianco vestiti non sarebbero stati certamente immuni, come dimostravano gli eventi spagnoli contemporanei. Invece, quanto al fatto che una spietata dittatura borghese avrebbe perseguito il progetto di distruggere l'intero popolo ebraico, beh, è molto probabile che non avrebbe potuto importargliene di meno. Questo spiega quasi tutto, lasciandoci una curiosità destinata probabilmente a non essere soddisfatta. Chissà quale visione avranno mai avuto davvero i tre pastorelli prima di finire nelle mani dei loro interpreti. Io, se posso azzardare una supposizione gratuita, ho sospetto che c'entrasse molto l'immagine dell'inferno, come la si descrive nella prima parte della Rivelazione. È un'immagine che corrisponde bene all'insegnamento catechistico di allora, come poteva essere recepito da un'anima puerile e impressionabile. Ma appunto quello dell'inferno è il mistero di cui oggi si parla il meno possibile. E tutti i pii commentatori della Rivelazione papale hanno preferito lasciarlo perdere, perché oggi quello d'inferno è un concetto imbarazzante, è fuori moda, e il teologo che riuscisse a trovare il modo di toglierlo di mezzo senza far troppo danno si guadagnerebbe la gratitudine immensa di tutta la Chiesa. La teologia, come tutte le scienze esatte o inesatte, è sempre specchio dei tempi, è soggetta a un continuo processo di aggiustamento che ne modifica gli assunti. Forse vi tradisce, ma al tempo stesso ci permette di poterne fruire anche se i tempi e i valori sono cambiati. Forse nemmeno la povera suor Lucia, tutta intenta a fabbricare rosari a ritmo stacanovista nel suo convento di Coimbra, ricorda più esattamente com'è stata quella sua misteriosa esperienza di 83 anni fa. Anche gli uomini e le donne ricreano e reinterpretano continuamente se stessi. La realtà del nostro passato per tutti è altrettanto insondabile di quella del nostro futuro, e questo è un segreto certamente più profondo di quello di Fatima.